Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Intuito, quanto conta nella vostra vita? Buongiorno da Nicoletta Carbone. Io me lo sentivo e quando me lo sento, me lo sento. Succede. Mi ha chiamato come a scuola. Ma cosa dici? Dico che Luca mi ha invitato ad andare al mare e per evitare le code aveva proposto di partire venerdì pomeriggio. Gli ho detto di sì. È anche il nostro anniversario. Ma già sentivo che sarebbe successo qualcosa e non sarei potuta andare. Sei pessimista. No, caro. Io ho una vocina che mi parla. Mi sembri un po' fuori. Adesso mi dici che predici il futuro. No, guarda, io quella lì appena l'ho vista ho avuto la sensazione a pelle che fosse una che scaricava il lavoro sugli altri. E così è andata. Devo coprire il suo turno. Così il capo mi ha chiamato e addio mare. Ma io già lo sapevo. Tu non ci credi, ma io ho un sesto senso, intuito, un fiuto straordinario. Ma solo per le cose negative o a volte il tuo magnifico intuito ti suggerisce colpi di genio? Intuisco che, come al solito, non hai capito nulla. Credete nel vostro intuito, sesto senso, fiuto, che dir si voglia? Raccontateci la vostra storia. Intanto però prima sentiamo il campione di voci che abbiamo raccolto e che ci danno una definizione di intuito. Che cos'è l'intuito? L'intuito è cercare di comprendere le situazioni anche a livello profondo, non solo a livello superficiale. È una capacità che può essere molto, è molto utile, anzi per chi ce l'ha, però secondo me non tutti ce l'hanno, per esempio io secondo me non ce l'ho, e è appunto la capacità appunto di riuscire ad andare a fondo nelle cose e non fermarsi solo a livello superficiale, quindi comprendere al di là delle apparenze sia le situazioni che anche le persone, perché può essere utile sia nelle amicizie che nei rapporti appunto con le altre persone, che anche sul lavoro è importantissimo insomma avere intuito, cercare di cavarsela anche in qualche modo, riuscendo a capire cosa ci può essere a fondo delle cose. L'intuito è parare un rigore, cioè andare dalla parte giusta senza sapere cosa succederà dopo. Allora, secondo me l'intuito è quando si ha l'impressione di conoscere qualcosa senza che nessuno te l'abbia detto, te l'abbia spiegato. Magari ti viene in mente la risposta a una domanda senza che tu conosca l'argomento, oppure quello che capita a me, per esempio, è di riuscire abbastanza velocemente a capire se una persona, magari le caratteristiche, il carattere di una persona senza averla mai incontrata prima di quel momento. Allora, l'intuito è qualcosa per cui, modo di ragionare per cui si arriva a una conclusione senza aver studiato, per esempio. Allora, l'intuito, secondo me, allora innanzitutto presuppone che tu non sai una cosa e vai a intuito. Quindi tu non la sai, ti devi fidare del tuo intuito, che non so bene cosa sia. Però ti permette di raggiungere o di capire o di cercare di capire qualcosa o di fare qualcosa. E per saperne di più abbiamo invitato il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Professore, mi dà una definizione di intuito? Ne abbiamo sentite molto. A me è piaciuto in modo particolare il ragazzo che ha detto è come parare un gol. Beh, intanto complimenti, è una scheda eccezionale. È stato detto veramente praticamente tutto. Io vorrei dire un aforisma. L'intuito è capire senza pensare. È la parte più animale dell'essere umano. Noi dobbiamo ricorrere a delle espressioni sesto senso, buon senso, qualcosa che va al di là. In realtà noi quando capiamo, capiamo dopo aver fatto un ragionamento, quindi dopo aver avuto degli antecedenti, aver utilizzato la nostra velocità e mobilità associativa, aver fatto connessioni e quindi giungiamo a un risultato. La bellezza dell'intuito è un capire senza sprecare energie. E sai una cosa e basta. Senza al di là fatica. Del ragionamento, senza la minima fatica. Questo è paradossale, ciò che ci rende più simili agli animali, eppure è il presupposto sostanziale dell'intelligenza che invece dagli animali si separa, perché la base dell'intelligenza è capire la situazione, annusarla, da qui poi parte il resto. Quindi direi un dono innato che ci consente, come dicevo all'inizio, di capire una cosa senza bisogno di spiegarcela, sprecando zero energie. Beato chi ce l'ha. Ma c'è una, c'è, possiamo dire che oltre all'intuito c'è anche, professor Barbanti, un pseudo-intuito, o sbaglio? Sì, esiste quello che noi chiamiamo impropriamente intuito e in realtà è una pseudo-forma dell'intuito. Facciamo l'esempio di salire su un tram piuttosto affollato in cui ci siano due posti liberi, uno vicino a un barbone, uno vicino ad una signora di mezza età. Probabilmente noi ci metteremo seduti vicino alla signora di mezza età, in quel caso noi non avremmo sfruttato il nostro intuito. Semplicemente la rapidissima velocità del nostro pensiero ci avrà fatto capire qual è la soluzione da utilizzare, quindi un posto teoricamente più tranquillo, ma attenzione, è solo un ragionamento velocissimo. L'intuito è una sorta di folgorazione, è un'altra cosa che dal ragionamento non passa. Le donne, si dice, noi donne, siamo più, abbiamo più il sesto senso, siamo più intuitive, lo sentiamo di più, un po' come è capitato nella nostra scenetta che, con cui abbiamo aperto la trasmissione. Alcune dicono, mi scrivono, sono anche un po' maga, ho intuito perché sono maga. Professor Barbanti, al di là di queste battute, il sesso femminile è più dotato di intuito? Beh, direi in genere di sì, lo stesso atteggiamento materno che la donna ha è frutto di un sapiente intuito verso le situazioni. Proviamo da neurologo a dare una spiegazione di una abilità mentale di questo tipo. È abbastanza noto che la donna paradossalmente ha più cervello dell'uomo, o meglio pesa di meno, ma il rapporto tra la sostanza grigia, che è quella più nobile, e la sostanza bianca è più vantaggioso a favore della sostanza grigia nella donna, specie nelle aree integrative, che sono quelle sorte di condomini in cui tutte le varie abilità confluiscono. Un'altra cosa, il cervello della donna è molto irrequieto, o meglio è molto attivo, lo dimostrano gli studi del metabolismo cerebrale, sia studiando il glucosio, sia studiando il flusso. E poi le funzioni cerebrali, tipicamente così distinte tra un emisfero e l'altro, nella donna sono meno lateralizzate. Però c'è un però. Einstein, che donna non era e genio certamente era, aveva un cervello molto strano. Il cervello di Einstein è stato studiato post mortem. Era per esempio un cervello in cui la quantità di neuroni, cellule nobili, in rapporto alla quantità di cellule gliali, che sono cellule diciamo apparentemente meno nobili, era sfavorevole. Quindi un cervello che, se non avessimo saputo apparteneva a lui, potrebbe essere un cervello diciamo di serie B. Quindi insomma l'intuito della donna ha basi neurologiche, ma insomma rimane ancora un po' inspiegabile. Mi sembra che però, professore, tante volte, almeno capita a me, di avere paradossalmente un colpo di intuito quando sono più stanca o quando proprio non penso a nulla, quando sono in stand-by. È possibile? Sì, è possibile e non è neanche così raro. In realtà il nostro ragionamento, che pure è la base del vivere civile, del vivere sociale, a volte ci frena. Perché c'è tutta una sostanza, una impalcatura di appunto di pensieri, di ragionamenti, di strategie razionali che imbrigliano quella parte, quel fiuto che è in noi. E non è raro, per esempio, grande intuito forse non ce l'ho, ma mi ricordo distintamente una volta che intuì una cosa molto importante mentre stavo prendendo un impianto di risalita in Val Badia, essenzialmente uno schivista, evidentemente molto distratto quindi dai ragionamenti convenzionali. Quando siamo molto stanchi, quando siamo anche addirittura a volte indeboliti, viene meno quindi questo filtro cognitivo, questa sì, matassa di ragionamenti che noi abitualmente facciamo, e la parte istintuale, istintiva, il sesto senso può emergere con più facilità. Professor Barbanti, lei si affida quindi al suo intuito? Io mi affido anche all'intuito di chi mi sta vicino, i miei collaboratori che mi danno ottimi consigli, però certamente sì. Credo che di fronte alle scelte importanti noi il più delle volte le prendiamo su due piedi in un istante senza pensarci e poi pensiamo, oddio, perché ho detto questo? L'intuito certamente cioè conta moltissimo. Grazie al professor Barbanti per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Raccontateci quando un'intuizione è arrivata all'improvviso e vi ha cambiato un po' la vita, la quotidianità, e soprattutto se pensate di essere persone intuitive oppure siete come tra quella ragazza, tra una di quelle ragazze che abbiamo sentito per il nostro mini sondaggio, ha detto io proprio non ho intuito. E io voglio darvi subito due buone notizie, ce le facciamo dare dall'ospite di oggi che è Francesco Martelli, che è qua in studio con me. Ciao Francesco. Buongiorno. Consulente, formatore, trainer di PNL, programmazione neurolinguistica, che ha concentrato proprio i suoi studi su questa dote, la chiamiamo così, l'intuito, e ha scritto insieme a Carmelo Carlo Fiorito Vivere con intuito, un libro da cui noi oggi prendiamo spunto perché io credo che un po' di intuito aiuti a vivere meglio, e quindi oggi approfitteremo del nostro ospite e delle vostre richieste, dei vostri racconti per allenare, potenziare il nostro intuito. Perché si può fare, vero Francesco? Sì, io sono assolutamente convinto che l'intuito è una dote innata, quindi tutti lo abbiamo. Poi certamente alcune persone lo usano maggiormente o sono più abituate di altre ad affidarsene. Certamente tutti possiamo svilupparlo, potenziarlo, e nel libro abbiamo alcuni esercizi, alcuni modi per riuscire. Sì, il libro è molto carino perché è scorrevolissimo e veramente ricco di esperimenti, di esercizi dove voi insegnate a prendere consapevolezza di questa vocina interiore. Per alcuni è una vocina, per altri è una sensazione a pelle, per altri è una parola, un suono, una lampadina. Insomma, sembra che l'intuito si manifesti a noi, prenda strade diverse, un po' attraverso i cinque sensi, Francesco. Sì, esattamente, sì. Spesso si tratta dei sensi interiori, cioè quindi queste sono cose interiori, dentro di noi, sensazioni interne, paroline dentro la nostra testa o addirittura flash, immagini nella nostra mente. Spesso sono così istantanee che non ce ne accorgiamo quasi e per questo non comprendiamo come funziona. Noi appunto insegniamo un po' a renderci conto e a renderci consapevoli di questi fenomeni e poi poterli utilizzare. Ma allora, dato che noi vogliamo essere una trasmissione di servizio, vogliamo aiutare i nostri ascoltatori a prendere dimestichezza con questo daote, con questo talento naturale, come puoi aiutarci oggi? Che quali domande ti servono e ti aiutano? Partendo dalle nostre storie, tu che cosa puoi fare? Dunque, io direi che possono darmi spunto per commentare quello che io trovo utile in genere per sviluppare l'abilità. Perché, per esempio, la persona che diceva che secondo lei ha poco intuito, sicuramente baserà questo suo giudizio sulla sua esperienza finora. Comunque il fatto è che finché è convinta di questo sicuramente non avrà molte possibilità di sviluppare l'intuito, dato che non ci crede. Il fattore convinzione è molto importante per poi fidarsi di una abilità, qualsiasi abilità essa sia. Se io non credo di avere buona memoria, ovviamente non l'avrò. Caterina ci chiama da Catania, buongiorno. Buongiorno. Sì, lei ha fiuto, intuito, si affida? Fiuto no, mi pare già... È quasi un dispeggiativo. Intuito penso di sì, nel senso che molte volte vedo delle situazioni abbastanza anche ingarbugliate così, però riesco in poco tempo a capire di che si tratta e magari anche intervenire per migliorare o modificare la situazione. Io lo vedo principalmente in funzione anche degli altri, cercare di, nel mio piccolissimo, di risolvere qualche problema che magari potrebbe degradarsi in qualche modo, portare al peggio. Certo, quindi Caterina, un po' come ci raccontava il professor Barbanti, è un modo di arrivare prima alla soluzione di un problema, quasi una scorciatoia, soprattutto senza fatica. Vediamo se fa invece fatica Mauro, che ci chiama da Torino. Buongiorno Mauro. Beh, complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, secondo me l'intuito è diviso in tre parti. Sì. Allora, logica, esperienza e linguaggio del corpo. Perché le donne molte volte sono additate come, adesso dico streghe, ma in senso buono? Sì. Le donne sono molto più abituate degli uomini a guardare le altre persone. Una donna nota le scarpe, nota i vestiti, eccetera, eccetera. Quindi guarda le persone, guarda i loro movimenti e o consciamente o inconsciamente sanno se questa persona sta mentendo, sanno se questa persona è felice, eccetera, eccetera. Quindi l'intuito, il sapere che quella è una brava persona o non è una brava persona, la donna, guardando molto, probabilmente prende questi segnali del corpo e li fa passare per intuito. Quindi, ragazze, amiche all'ascolto, faremo dei corsi per i nostri compagni. Imparate da noi, Mauro? Sì, perché voi donne siete molto più attente, iniziate già con i bimbi, voi guardate il bimbo, sapete se il bimbo ha fame, ha sete, ha sonno, eccetera, eccetera, quindi siete più abituate voi donne a gestire questi segnali che tutti noi mandiamo. E questi segnali a volte ti dicono prima le intenzioni della persona con cui parli. Intuisco che lei è molto preparata ed è una persona molto sensibile. Grazie Mauro per averci chiamato. Grazie, buona trasmissione. Sapevo che il capo ci avrebbe ripensato. Non sarebbe dove se non capisse il vero valore degli uomini. Lui sa che io sono unico e pertanto indispensabile. Noi siamo molto uguali, il capo e io. Sappi che tutti i grandi detective hanno una cosa in comune, e sai qual è? L'istinto. Quella rara abilità di capire al volo senza doversi fermare e riflettere. E nel mio lavoro può significare la differenza tra la vita e la morte. Ci vado io. Merci. Oui, quella frazione di secondo in cui l'istinto ti dice che... La nuova ondata di era l'ispettore Clouseau e forse anche lui, Francesca, avrebbe bisogno di un piccolo ripasso. Noi facciamo le cose con ordine, ci sono tanti esercizi per fare un po' di palestra, ma intanto a me capita, ad esempio, come faccio a sapere che il mio intuito mi fa fare qualche cosa di buono per me? Io ad esempio, quando sono al supermercato, tutte le volte che dico vado in quella coda lì, qualche cosa capita, è sempre la coda più lunga. Allora a me verrebbe da dire, non se il mio intuito dice vai alla cassa 9, vado alla cassa 18. Allora come faccio a capire? Perché magari l'intuito ci tira anche dei brutti scherzetti. Mettiamola così, ci sono due strategie che potresti utilizzare lì. Potresti provare a vedere cosa succede se tu fai l'opposto, questa è una strada, e lo provi a fare un numero di volte, 10 volte, vedi cosa succede e deduci se effettivamente è una buona strategia. Io presumo che il tuo errore sia magari determinato dallo stato mentale in cui sei quando sei nel supermercato, magari sei di fretta, magari sei stanca, perché abbiamo trovato che l'intuito è influenzato dallo stato mentale. Se una persona è stressata, preoccupata, affrettata, l'intuito non funziona tanto bene. Infatti una delle tecniche più importanti da imparare è quella di trovare il modo di rilassarsi un po', scalare le marce e mettersi un po' più in contatto con le proprie impressioni. Quindi posso immaginare che forse è una questione di questo tipo che ti impedisce di azzeccare. E poi posso aggiungere una cosa: secondo me non tutti abbiamo intuito in tutto, no? C'è chi ha più intuito negli affari, chi ha più intuito nell'amicizia, chi ha più intuito, se uno sportivo, nei gesti atletici. Non è che questo intuito, se no sarebbe come il genio della lampada di Aladino, diciamo, no? si può estendere, ma in generale si comincia con un'area forte e altre invece meno forti. Ecco, dov'è che il vostro intuito è più forte? Daniela da Udine, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione intanto. Grazie. Allora, io ho molto intuito, solo che non lo uso mai, perché ogni volta che c'è quella vocina che mi dice di fare qualcosa, io seguo la mia parte logica e poi, col senno di poi, mi rendo conto che avevo ragione se avessi fatto quello che mi diceva la mia vocina interiore. Allora, chiediamo al nostro coach, Daniela dovrebbe provare a fare delle piccole prove di volo o di sbaglio, sì, perché si sbaglia anche a seguire magari l'intuito. Magari in ambiti non cruciali, quindi evitando di decidere se investire tutto in borsa o meno, ma facendo piccole prove su ambiti tranquilli e vedendo quindi di prendere fiducia dai risultati, che saranno sicuramente positivi, almeno in parte. E quindi le consiglierei senz'altro di dare un'occhiata al nostro libro, perché insegna soprattutto a prendere consapevolezza di questa dote e quindi a prenderne anche fiducia passo per passo. A Daniela suggerisco, anch'io lo farò, di fare le prove con le casse del supermercato. Poi Daniela, ci sentiamo e vediamo in una settimana, in un mese, quante ne abbiamo cassate. Ettore da Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Sono veramente contento. Ma vedo già che lei sorride e quindi già questo mi fa intuire che sarà una bella telefonata. Vada, Ettore. Ho un pieno di problemi, ma sono sempre allegro. Bravo. Senta, un'applicazione sul mio lavoro. Io sono elettricista, ho 65 anni, quindi ho un'esperienza vasta, insomma, nel campo, no? Dunque, l'ultima che mi è capitata è questa: vado in un'azienda a fare dei lavori, degli interventi, finisco il tutto. A un certo punto il proprietario mi dice: guardi, ho una serratura elettrica banalissima, sa quelle che si aprono con i citofoni, no? Sì. Per spiegare. Dice: sono venuti in 10, nessuno riesce a farlo funzionare come si deve. Dico: qua o ti rimetto la faccia, vediamo un po'. Sì. Vado anch'io, riapro, faccio il disco, va avanti, indietro, stacco, cambio filo, eccetera. Niente da fare, questa serratura banalissima non funzionava. A un certo punto stavo per arrendermi e dico: ma mi viene questo intuito e dire: ma questo funziona al contrario. Insomma, per farla breve, stringo due banalissimi viti, no? Che sì, tenevano fermo questa cosa, e tutto si è messo a funzionare come un orologio. Ho fatto un figurone. Un figurone, Ettore! Ho guadagnato un sacco di punti, no? Verso l'azienda, dice: ma insomma, e io insomma dico: guardi i miei capelli, a un certo punto se non riuscivo io. E lei, riuscire, no? E lei ha fatto un figurone e si è guadagnato questo cliente. Grazie, Ettore. Ma Ettore ci dice anche una cosa importante: che l'intuito è vero, è importante affidarsi a questa vocina, a questa sensazione, però ci vuole anche la conoscenza. Sì, in parte sicuramente anche influenzato positivamente dall'esperienza. Ma è interessante che questo signore prima ha provato senza riuscire per un po', probabilmente ha fatto le cose più logiche, più normali da fare in questi casi e non è riuscito a risolvere. Solo quando ha mollato la presa e aveva quasi deciso di smettere, ha lasciato il campo libero a questa intuizione. E infatti spesso questo accade, quando meno ci pensi, lo dicevamo anche prima. Essere e benessere. Eccoci tornati insieme, oggi parliamo di persone intuitive e creative. Abbiamo iniziato con due buone notizie, perché qui a Essere Benessere vogliamo provare a fare la palestra dell'ottimismo, perché essere positivi aiuta. Io saluto e ringrazio Francesco Baccini, che è in linea con noi. Ciao, ciao a tutte. Cantautore, tra l'altro, è proprio che hai mie stesse età, quindi è di un'annata magnifica. Comunque, certo. È infatti cantautore di grande successo, amato e apprezzato, soprattutto e anche per la sua versatilità. Colpo di genio, intuizione, sesto senso, chiamalo come vuoi. Quanto contano, quanto sono importanti questi ingredienti nel tuo lavoro di artista, Francesco? Beh, qui si vive di colpi di intuizione, di colpi di genio, nella vita sei devasto, perché le canzoni alla fine sono delle intuizioni, normalmente, a meno che veramente non le fai come fare un dentifricio, però se lo fai in maniera comunque da artista, l'artista è fatto solo di quello, di intuizione, di colpo, di veramente anche quasi misterioso, perché lo vedo su di me in mezzo al pianoforte e fino a un minuto prima non esisteva niente e in quattro minuti ti esce: ho voglia di innamorarmi. È un mistero quasi divino, anche per te che la stai facendo. Senti Francesco, ma ci sono, tu hai visto che ad esempio le intuizioni ti arrivano più facilmente in un momento particolare, se tu hai citato il pianoforte o se sei rilassato, se sei a contatto con la natura, se insomma è vero come dicono gli esperti che queste intuizioni parlano soprattutto quando noi abbiamo una percezione più profonda del nostro io e quindi siamo più in contatto con la nostra parte, quella la, no, più profonda, più intima. A te succede così oppure ti capita? Succede al contrario. Succede che sono più creativo nei momenti che ho dei grossi problemi o dei problemi. Se non ce li ho, tendo ad appiattirti, no? Sì, è un po' come, no, come la lepre inseguita dal cacciatore che no, cambia direzione e lo spiazza, evviva! Senti, invece nella tua vita di uomo, nell'amore, nelle relazioni, quelle più... È lì l'intuito? È un disastro diverso. Perché, perché sbagli sempre? Sì, ma sbaglio completamente, perché le mie intuizioni vanno a farsi benedire. Senti, allora fai così. Le intuizioni cattive, però io mi fido poi del mio istinto, sono un istintivo, quindi non posso vivere altrimenti, anche se provo magari a volte e tento di fare razionale un disastro. Poi sono bilancia ascendente gemelli, come posso essere uno con i piedi per terra? No, anch'io. Aria più aria, doppio più doppio, ciao. No. Va bene, comunque se hai bisogno delle consulenze, tu prima di scegliere mi chiami e io ti dico un abbraccio a Francesco Baccini. Grazie. Vado subito alla provincia di Varese dove ci aspetta Tiziana, buongiorno. Buongiorno. Sono contentissima di parlare con lei anche perché l'ascolto tutte le mattine. Oh, ma Tiziana, che carina, grazie, anch'io lo sono. Mi racconti. Dunque, le racconto che la famosa vocina interiore per me è diventata una cosa molto preziosa, nel senso che questa vocina mi aiuta molto spesso quando sono in giro in macchina, nel senso che, come dice mio marito, ma tu sei nella testa degli altri, però è vero, perché delle volte io magari... Cosa gli dice? Attenzione che quella lì davanti gira senza freccia. Infatti, ma anche quando guido, cioè questa vocina va ascoltata, perché a me mi ha aiutato tantissimo, cioè dico in macchina, ma anche nel mio lavoro, in tante altre cose. Il non ascoltarla, purtroppo, delle volte mi ha provocato dei problemi. Allora, una bella testimonianza quella di Tiziano, che sicuramente di Tiziana, che piace al nostro Francesco Martelli. Francesco, quindi Tiziana l'ha sperimentata e quindi ci crede e lo mette in pratica. In effetti sì, se ne è resa consapevole, cosa che alcune persone purtroppo non fanno, ecco. E poi se ne è cominciato a fidare e a seguirlo. Per prendere consapevolezza di questo aiuto, no? Che è un po' un pilota automatico che abbiamo e che possiamo, alcuni attivano, altri no. Tu hai detto bisogna fare un po' delle prove di errore, fate delle cose semplici ma provate, solo. Ma bravo, non direi solo, che, c'è un altro step. Ripeto, la questione sarebbe quella di trovare la maniera di scalare un po' con le marce in modo da poter ad esempio ascoltare la vocina oppure ascoltare la sensazione. Questo in generale riesce meglio quando una persona è un pochino più attenta al proprio interno, ha una percezione maggiore di se stessa, è un po' più quieta. Quindi ecco perché esercizi di leggero rilassamento possono aiutare. Però ci sono degli ascoltatori, e sono tanti, che mi scrivono: invece io ho proprio l'intuizione quando sono alle corde, quando sì. Sono in una situazione di grande stress. Perché un altro meccanismo è che l'intuito si accende proprio quando più serve, quando sono momenti in cui effettivamente è vitale. Allora se tu ti rendi consapevole che per te funziona in quel modo, potresti riprodurre apposta questo tipo di situazione in modo da potervi accedere. Questo per dire che non c'è una strada buona per tutti. Non è che l'intuito poi ci fa degli scherzi, però se vediamo che seguendo questa vocina tutte le volte sbagliamo, non ci crediamo, probabilmente chiudiamo. Dovresti più ascoltare allora le sensazioni, perché potrebbe essere che la vocina non è il tuo modo giusto, magari quella vocina è influenzata dalla razionalità piuttosto che una vera. Ecco, e andiamo su altri canali che possono essere ad esempio quella specie di, noi diciamo la sensazione a pelle, quando una persona non ci piace o ci piace. L'empatia è stata studiata molto dai ricercatori, è quella proprio di mettersi in contatto con quella persona che ti guarda, si muove, ti parla in un determinato modo che ti fa capire che è quella giusta. Sì, assolutamente, quindi non per tutti si manifesta l'intuito nello stesso modo e renderci consapevole del nostro modo è estremamente importante, anche quali sono i fattori che la aiutano o meno. E non serve l'intuito, ma solo un briciolo di buonsenso per trasportare e conservare i farmaci durante i viaggi. Sembrerebbero delle raccomandazioni inutili, invece ci sono ancora persone che mettono tutti i farmaci in una valigetta, la piazzano in macchina e la lasciano lì durante le soste, e intanto la temperatura sale e i farmaci ne soffrono, e parecchio. Ma ci facciamo dare qualche dritta, qualche raccomandazione di buonsenso dalla dottoressa Ornella Cappelli, che è presidente dell'Associazione Nazionale Donne Medico. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. Ecco, diciamo subito, sono due essenzialmente. Una è il discorso che i farmaci sono dei prodotti che risentono della temperatura, vanno conservati in maniera adeguata, quindi come diceva lei è un problema di garantire il mantenimento di una temperatura che non dovrebbe superare i 25 gradi. Questo vale sia in casa ovviamente che durante i viaggi. L'altro problema, che è l'inverso, è se per caso noi mettiamo i farmaci nel bagaglio che mettiamo in stiva in aereo, perché certo. In aereo invece nelle stive si raggiungono temperature molto al di sotto dello zero e quindi anche questo non va bene. Quindi li portiamo con noi nel bagaglio a mano se perfetto. Siamo in aereo, e se siamo in macchina evitiamo possibilmente di lasciarle in macchina sotto il solleone per delle ore. Questo questa è una cosa. L'altra cosa è l'importanza di tenere le confezioni integre, perché nella confezione integra c'è la data di scadenza, c'è ovviamente il nome del farmaco che si legge bene, c'è il foglietto delle istruzioni che è sempre bene leggere prima di assumere un farmaco. Il famoso bugiardino, dottoressa Cappelli. Il cosiddetto bugiardino, certo, che preferisco chiamare foglietto delle istruzioni perché certo. Non è detto che sia necessariamente un bugiardino, assolutamente. Diciamo che dovrebbe essere un punto di riferimento per chi utilizza un farmaco. Dottoressa Cappelli, mi dica. Spesso ne portiamo troppi. E alcune troppo. Persone invece ne portano troppo pochi, insomma anche lì buon senso, perché ci sono persone che partono con una farmacia al seguito per trasferirsi magari in una località di villeggiatura dove ci sono tre farmacie, quindi ecco. E d'altra parte qualche farmaco d'emergenza bisogna averlo. Direi di sì, anche per una questione di praticità. Allora, diciamo subito una cosa, se andiamo in una città, soprattutto se restiamo in Italia, grossi problemi non ci sono. È importante portarsi i farmaci che si assumono regolarmente per dei problemi cronici. Quelli è importante averli perché ci vuole la ricetta, non è detto che troviamo il medico, non è detto che il medico ce la faccia perché non ci conosce, quindi quelli è bene portarseli appresso o altrimenti portarsi la ricetta del nostro medico. Per gli altri farmaci, sì, come dice lei, se siamo sicuri e se siamo in un posto dove c'è la farmacia, che poi nelle località di villeggiatura in genere sono aperte 24 ore su 24, grossi problemi non ci sono. Se andiamo all'estero, se restiamo in Europa, è importante in questo caso magari prendersi un foglietto con scritti il nome del principio attivo che noi consideriamo di prendere in caso di problemi, perché non è detto che il nome commerciale sia lo stesso. Questo potrebbe essere un problema. Se invece si va all'estero, in paesi cosiddetti esotici, ecco allora il discorso ovviamente un po' cambia, perché sono diverse le abitudini, non è detto che sappiamo sbrigarci bene in una eventuale farmacia. È chiaro che se prendiamo sull'isola deserta o magari Un'altra cosa che c'è da tenere presente sono gli Stati Uniti, che è chiaro che troviamo tutto, soprattutto i prodotti da banco, però i prodotti che si vendono solo in farmacia, i farmacisti senza una ricetta di un medico americano non te li danno, soprattutto gli antibiotici. Ecco, in questo caso ce li portiamo da casa informandoci anche sul numero di confezioni se il soggiorno fosse particolarmente lungo. Diciamo che si spera sempre che non ce ne sia bisogno, però in caso dubbio, se uno magari parte che ha appena avuto la febbre o cose di questo tipo, si consulti col proprio medico, ecco, perché diciamo che il medico di famiglia a questo punto è sempre il nostro punto di riferimento. Esatto. Dottoressa Cappelli, io la ringrazio per essere stata con noi, auguro buone vacanze anche a lei. Ringrazio. Tenete presente, come dicevo prima, che i farmaci che si possono acquistare senza ricetta, che sono quelli cosiddetti del bollino rosso, no? I farmaci sono prodotti che comunque, essendo farmaci, vanno usati con cautela, quindi anche su questi può essere opportuno, prima di partire, in relazione a dove si va, con il proprio medico fare due chiacchiere, perché potrebbero esserci interazioni, potremmo essere intolleranti, potremmo essere allergici. È sempre bene comunque i farmaci trattarli da con farmaci. Buon senso. Ecco, non è detto che il fatto che siano di automedicazione che possiamo assumerli a nostro piacimento. Sono farmaci da automedicazione, ma semplicemente perché si possono utilizzare, diciamo, per quei disturbi noti che conosciamo, ai quali andiamo incontro con ogni tanto, che abbiamo già sperimentato e che prima di assumere abbiamo comunque sempre sentito il medico. Non automedicazione non vuol dire fai da te, dottoressa, neanche fai con il compagno di ombrellone. Dottoressa Cappelli, grazie per essere stata con noi. Buona giornata, buona vacanza a tutti. Essere e benessere. Ben ritrovati qui a Essere Benessere, riprendiamo il nostro mini corso di yoga con Lisetta Landoni, insegnante di yoga e presidente dell'Associazione Kriya Yoga di Milano. Lisetta, noi abbiamo respirato. Bene. Abbiamo fatto il compito. Sì. E adesso? E adesso, insomma, ne sappiamo un pochino di più. Io però, dato che sappiamo, da quanto ci ha detto anche lei, poi lo leggiamo, che la respirazione è un po' la base di tutto, no? Sì. Quando, non solamente per chi vuole fare yoga, in cui il respiro sicuramente gioca un ruolo fondamentale. Il respiro, lo sappiamo, è vita, non a caso quando siamo agitati, siamo stressati, respiriamo un po' corti, però dobbiamo avere anche una buona respirazione per essere efficienti nello sport. lo sa bene chi magari proprio approfittando delle vacanze ha ripreso a correre, chi nuota, chi, come dicevamo l'altra volta, va su in montagna a fare delle passeggiate. Mi è piaciuta molto la passeggiata dello Sherpa della scorsa volta, perché potrebbe essere anche un po' insegnata come un gioco, no? Questa alternanza di, esatto, respirazione, fermarsi e trattenendo il respiro e camminare invece contando, secondo me entusiasma anche i bambini, appunto, ma poi un po' tutti, perché in effetti ci si dà dei tempi, si è più equilibrati, quindi si percepisce di più il contatto con la natura circostante, con calma, in fondo siamo in vacanza. Per chi è in vacanza sì, però potrebbe essere una buona scorta di benessere per poi affrontare le vacanze in piena forma. Ripetiamo rapidamente questa, l'ABC del respiro, per chi magari si fosse messo in contatto con noi solo ora. Sì, l'ABC del respiro è dunque utilizzare una respirazione toracica, non addominale, non con la pancia come si dice volgarmente, ma proprio toracica, utilizzando quindi quel tratto della gabbia toracica che va da sopra l'ombelico, ossia in corrispondenza delle coste fluttuanti che noi possiamo percepire già dal contatto con le mani, ognuno può rendersi conto di dove, da dove partono le nostre coste fluttuanti, e poi via via sentiamo questa gabbia toracica che si riempie, che si gonfia a dismisura, e quindi un apporto di benessere straordinario. E poi tutto questo si sgonfia, si contrae, si chiude questa gabbia toracica sull'espiro. C'è anche il trucco, bisogna, che poi non è proprio un trucco, bisogna tenere un po' indietro la pancetta, la pancina, quella dall'ombelico, sì, dall'ombelico in al giù pube. Ma questo l'avevo pensato, vero, che già dall'altra volta, perché alla fine poi se uno considera che se lascia andare quel tratto lì dall'ombelico in giù gli viene la pancia, si vede, è brutta, allora forse facendo un attimo leva su questa piccola cosa di vanità che abbiamo tutti può essere già un modo anche per imparare a respirare meglio. Quindi pancia in dentro, pancia dentro, e torace invece ampio. Ma come diventeremo? Troppo belli. Troppo belli. Invece nella lezione di oggi quale tema dobbiamo affrontare? Adesso siamo pronti per la respirazione, possiamo fare, come si dice, un passetto in avanti. Possiamo fare un passetto in avanti, e qui proporrò ancora una respirazione diversa però. E, se lei mi consente, io partirei proprio da qualcosa che mi ha colpito leggendo un bel libro che si chiama La parola contesa tra filosofia e scienza, cura di Massimiliano Finanzi Flori, e tra i molti argomenti trattati estremamente interessanti c'è un'intervista che è stata fatta a Margherita Hack, che ha detto delle cose a proposito dell'universo che mi hanno lasciato a bocca aperta. Le hanno tolto il respiro, come si dice. Brava, mi hanno tolto il respiro, e dice esattamente o più o meno una cosa del genere. È straordinario considerare l'astronomia anche da un punto di vista filosofico per tentare di comprendere da dove veniamo e di che cosa siamo fatti. Sono le stelle che hanno fatto tutti gli atomi che servono anche per fare il nostro corpo. Sono le stelle, molto più grosse del Sole, che esplodono come supernove, che negli ultimi minuti, in un quarto d'ora della loro vita, creano tutti gli elementi, dall'idrogeno all'uranio, eccetera, e poi li sparpagliano perché esplodono e vanno a formare altre stelle, altri pianeti. L'astronomia ci dice qual è la nostra origine, che siamo parte dell'universo. Non siamo spettatori che cercano di capirlo, ma siamo il frutto di questa evoluzione. Tutto questo unisce ciò che esiste nell'universo in un senso ampio di fratellanza. Siamo tutti fratelli, siamo tutti fatti della stessa materia, abbiamo tutti la stessa ragione di essere, la stessa origine. Ma è vero, toglie il respiro. È bellissimo. Sì, poteva pensarla anche uno yogi questo? Ma lo yogi l'ha pensato. Perché la parola yoga è avanti. No, ma poi la parola yoga vuol dire già unione di che cosa? Non solo unione del corpo con il respiro, con il tutto. Ovvio che il respiro è lo strumento privilegiato che noi abbiamo a disposizione per connetterci con questo tutto assoluto che è patrimonio dell'universo, eh? Basta guardare, basta alzare gli occhi al cielo, ecco. non nel senso quando uno ti fa scappare la pazienza. No, ma proprio come Kant, no? Quando sì, diceva la volta stellata sopra di me e la legge morale dentro di me, in quel senso lì evolutivo. E quindi noi possiamo approfittare di questi stimoli che lei ci ha suggerito, partendo da Margherita Hack, addirittura Kant, per in qualche modo approfittare del nostro momento di yoga stasera, quando sperando ci regalino un bellissimo cielo stellato? Sì, e anche se non fosse, non importa, anche se fossimo chiusi nella nostra stanza, noi respiriamo in maniera giusta e saremo felicissimi. Allora, io propongo una respirazione che adesso che comincia a far caldo va a pennello, perché significa la respirazione rinfrescante. Si chiama Sitali. Rinfrescante. Rinfrescante, bellissima. Esattamente. E funziona in questo modo. Allora, noi tiriamo fuori la lingua come se volessimo mostrarla a qualcuno, però non biecamente, così, la lingua di fuori. Sì. Accartocciata, i testi dicono in una maniera molto carina, veramente, dicono accartocciata come una fogliolina fresca primavera, proprio come sta facendo lei in questo momento. Bravissima. Però alcune persone, io ho fatto un piccolo, quando si era piccoli, si giocava, non sì. tutti riescono ad fare la lingua accartocciata. Tra anche fratelli, bravissima. C'è uno che è capace a farlo e l'altro no. Sorella, ad esempio, non è capace. Vedi. Per cui chi può fare. È un fatto genetico, Ecco. Chi ha la possibilità di fare la lingua cartocciata, chi ha la possibilità di fogliolina, insomma, può fare questo sito. E chi non, no, lo fa lo stesso. Adesso poi darò darò anche la variante per quelli che non lo sanno fare. Allora, ammettiamo di aver tirato la lingua fuori e averla cartocciata come una fogliolina fresca primavera, quindi lì pronta per ecco. Quindi noi incominciamo a inspirare attraverso la lingua, quindi senza il naso magari chiudetelo con le mani, così siamo sicuri di non barare, e incominciamo a inspirare sottilmente attraverso quel sottile pertugio che si forma tra la lingua e il labbro superiore, così inspirando sottile, sottile, sottile, sottile, poi tratteniamo un po' e poi espiriamo con il naso, lungamente con il naso. Difficile, eh? Beh, insomma, richiede perché un minimo di concentrazione. Viene da buttare fuori il fiato dalla bocca. Dalla bocca invece no. Allora ripetiamo, magari inspiriamo con la bocca. Lungo, lungo, lungo, l'inspiro, più lungo è meglio è, naturalmente, e poi espiriamo con il naso soltanto, quindi a questo punto la bocca è chiusa. Per me no, perché sto parlando, ma ecco, si espira attraverso il naso. Allora, sembra una cosa da nulla, le posso assicurare che questo ha una funzione notevole sulla termoregolazione del nostro corpo. Infatti viene usata, ad esempio, quando c'è un calore forte. Non è un caso che questa tecnica si sia formata in India, dove sì, poi durante i monsoni, durante il caldo, è un caldo vero, poi umido, pesante, quindi uno sente il bisogno di rinfrescarsi, poi sente anche il bisogno di abbassare magari una temperatura interna che è alta, perché magari per motivi XY, non lo so, se è un po', sente un'influenzina in arrivo, sente un po' di mal di gola, facciamo questo. Parola. Quindi è da far fare anche agli anziani, invece che portarli nei supermercati, prima di portarla al supermercato a prendere fresco, broncopolmonite, appunto. Ecco, proviamo con la respirazione rinfrescante. Bravissima, esattamente. Quante respirazioni ci sono nello yoga? Credo tranquillamente un centinaio. Non riusciremo a farle tutte nelle nostre puntate di agosto. No, perché poi alcune sono molto specifiche, sono anche difficili, possono avere delle controindicazioni, soprattutto quando proposte a livello sportivo non sono proprio praticabili da tutti, però ce n'è una buona quantità da proporre qui il mese d'agosto e fa stare bene tutti. Mi piace, perché già rispetto alla respirazione della scorsa volta, quella della, mi passi il termine, un po' da come l'abbiamo definito, fisarmonica, questa è un pochino più curiosa. Se noi riusciamo ad imparare 4-5 tipi di respirazione e alternarle, secondo me non ci annoiamo. Sì, sicuramente. E ci ma comunque c'è questo da dire, una è assolutamente funzionale all'altra, cioè quella fisarmonica è indispensabile per capire come dobbiamo usare la gabbia toracica, questa invece è in funzione di un effetto rinfrescante e così via. Ne ho un ventaglio, io mi posso fermare qui anche una settimana. Va bene, allora le do appuntamento invece alla prossima settimana, sì. Mi diverto molto, intanto sì. Se volete scriverci, se volete raccontarci gli effetti che hanno su di voi la lezione di Elisetta Landoni, scriveteci a essere benessere@radio24.it. E per oggi è tutto, buon pomeriggio da Nicoletta Carbone, noi ci sentiamo domani.